cattedrale di pietra e sassi, mille statue che toccano il cielo. Perché non apri le tue porte per sentire questa mia preghiera? È cambiata la mia sorte, tutto solo da stasera. Un'ora fa avevo lei che si spera.